English Bit di Giulia Crivelli. Missing. Are the Nobel Prizes missing female scientists? I premi Nobel non prendono in considerazione le scienziate donne? The Nobel Prize has a woman problem. A total of 203 people have won the Nobel Prize in Physics, but only two were women. Il premio Nobel ha un problema con le donne? Sono state 203 finora le persone ad aver vinto il premio Nobel per la fisica, ma solo due erano donne. Per la cronaca, Marie Curie nel 1903 e Maria Goeppert-Mayer nel 1963. In questo titolo e in questo primo paragrafo di un articolo pubblicato questa settimana, dopo l'annuncio, come sempre accade all'inizio di ottobre, dei premi Nobel e in particolare di quello per la fisica, ci sono molti elementi e parole ed espressioni interessanti. Partiamo da missing. Nel titolo è usato come verbo transitivo, ma to miss, regolare, significa, oltre a non prendere in considerazione, mancare. Am I missing something? Mi sta sfuggendo qualcosa? I miss you, mi manchi. I missed the only shot I had. Ho sbagliato l'unico colpo che avevo. Poi c'è l'uso come sostantivo. The missing sono gli scomparsi. E missing, per non farci mancare nulla, può diventare pure aggettivo. The missing girls in Nigeria were taken by Boko Haram. Le bambine scomparse in Nigeria sono state rapite da Boko Haram. Citiamo anche due film per rendere meglio l'idea. Il primo è Missing di Costa Gavras del 1982, che in italiano venne tradotto con Scomparso e narrava la ricerca da parte di un padre del figlio ucciso in Cile dopo il colpo di stato di Augusto Pinochet, o meglio, scomparso, desaparecido e quindi certamente morto assassinato. Poi c'è la serie Taken con Liam Neeson, di cui finora sono stati girati 3 episodi e che letteralmente significa rapito o rapita. Ma torniamo all'articolo sui Nobel. Vediamo per esempio Physics, che significa fisica nel senso di disciplina scientifica, così come Politics significa politica e Mathematics vuol dire matematica. Attenzione al False Friend Policy, che significa ad esempio politica economica. Poi c'è l'uso di people, gente, persone, che viene usato al singolare, il plurale peoples vuol dire popoli, ma sempre affiancato dalla forma plurale del verbo. La gente è stanca, diciamo in italiano, ma in inglese diremo people are tired.